GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Investimento mortale sui binari, treni fermi in tarda serata per alcune ore fra Monfalcone e Trieste. L'impatto, per ragioni ancora sconosciute, con un convoglio regionale proveniente da Venezia. Già nella notte la circolazione è tornata regolare. Sarà riaperta questa mattina dalle 8 la strada del Vallone, percorribile il tratto che collega il Lisert a Sablici. Quello da San Giovanni di Duino invece sarà oggetto di verifiche. Ancora incendi in regione, vigili del fuoco in forze a Polcenigo, massiccio intervento assieme a Forestale e Protezione Civile per spegnere un rogo scoppiato le pendici dei monti, fiamme spente, ma la situazione viene costantemente monitorata. Il disastro sul Carso, in fumo 4.000 ettari di vegetazione. Le immagini satellitari hanno aiutato i ricercatori dell'Università di Udine a calcolare la superficie, bruciati 200.000 metri cubi di biomassa. Varsila, un'azione legale per fermare i licenziamenti. L'azienda sarà denunciata per comportamento antisindacale. L'annuncio nel giorno dello sciopero della manifestazione a Trieste e in contemporanea negli altri stabilimenti della multinazionale finlandese. A Belluno, l'ultimo saluto a Omar Monestier, giornalisti, amministratori, alle esequie del direttore dei quotidiani Il Messaggero Veneto, Il Piccolo, morto alcuni giorni fa a 57 anni. Banche venete per Consap, l'invito allo sforzo istruttorio. La vittoria al TAR di un'anziana che aveva fatto ricorso dopo un errore nella domanda diventa caso esemplare nel difficile percorso dei rimborsi. Torna il grande esodo estivo sulle strade. I numeri dei passaggi sulle nostre autostrade, fatti registrare già nell'ultimo weekend di luglio, confermano la ripresa in grande stile del turismo dopo 2 anni di calo a causa della pandemia. Primo impegno ufficiale per l'Udinese in Coppa Italia. Questa sera i bianconeri di Sottil affronteranno lo Stadio Friuli la Feralpi Salò, Pordenone e Triestina, e con le avversarie del girone A, Neroverdi e la Bardati se la vedranno tra le altre formazioni con Padova, Piacenza, Vicenza, Juventus Under 23. Le squadre lombarde sono 9, le venete 4. Rinviata la composizione del calendario. Agosto all'insegna di spettacolo, musica e intrattenimento a Muggia, che celebra il carnevale estivo, e torna in Friuli Venezia Giulia una delle più importanti manifestazioni enoturistiche dell'estate, Calici di Stelle. In tante piazze delle città del vino, appuntamenti e spettacoli per ammirare il cielo di notte sorseggiando i vini del territorio. Le 7:20 minuti e 30 secondi, questi titoli, un buongiorno da Giorgio Beers e Livia Liberatore, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 5 agosto. Prima di cominciare con le notizie diamo come sempre uno sguardo alla situazione del meteo di oggi e le previsioni. Il cielo è sereno, poco nuvoloso, le temperature registrate alle 6, a Trieste ci sono 24 gradi e 5 decimi, il mare è calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Pordenone 21 gradi e 5 decimi, a Udine 21 gradi, a Gorizia 20, a Tolmezzo 21 gradi, a Foni di Sopra 18 gradi e mezzo, a Tarvisio 15 gradi, a Piancavallo e Sappada 14 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 17 gradi, sul Monte Zoncolan 16 gradi e 5 decimi. Sulla costa a Lignano 26 gradi e mezzo, a Grado 25, la temperatura del mare è di 27 gradi e 5 decimi. Le previsioni per oggi: tempo stabile in pianura con cielo sereno poco nuvoloso e molto caldo, anche afoso. In montagna nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile con locali rovesci e qualche temporale, soffieranno venti di brezza. In apertura dunque la cronaca: una persona è morta a causa dell'impatto con un treno in entrata nella stazione di Monfalcone. L'investimento è avvenuto attorno alle 22:30. Di ieri, il treno coinvolto nel grave incidente, il regionale 38761 proveniente da Venezia e diretto a Trieste con una settantina di passeggeri a bordo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia ferroviaria. Non si conoscono al momento le cause dell'investimento. Per consentire i soccorsi e i rilievi, Trenitalia ha sospeso per alcune ore la circolazione ferroviaria, che però ripresa regolarmente attorno all'una di notte. Riapre questa mattina alle 8 la strada del Vallone, sarà percorribile anche il tratto che collega il Lisert a Sablici, quindi da Monfalcone Est a Gorizia si potrà percorrere la strada più breve e veloce senza limitazioni. Aprirà non prima del pomeriggio e comunque a senso unico alternato la parte iniziale del Vallone, il tratto che comincia da San Giovanni di Duino, dove FVG Strade sta intervenendo per mettere in sicurezza un tratto interessato dal dissesto geologico dovuto all'incendio stesso. Dal pomeriggio fino alla tarda serata di ieri, i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono stati impegnati per lo spegnimento di un incendio boschivo a Polcenigo. Viste le dimensioni del rogo e la possibilità di un avanzamento delle fiamme a monte della strada provinciale 29, i vigili del fuoco sono intervenuti in forza inviando la squadra di distaccamento di Maniago, la squadra antincendio boschivo della sede centrale di Pordenone, la squadra analoga del comando vigili del fuoco di Udine e un'ulteriore squadra giunta dal distaccamento di Vittorio Veneto, supportate da due autobotti con il coordinamento del funzionario di guardia e l'autofurgone unità crisi locale giunti dalla sede centrale di Pordenone. Presso il furgone UCL è stato allestito il posto di comando avanzato che ha gestito e coordinato le squadre dei vigili del fuoco e mantenuto i contatti con le squadre del Corpo Forestale regionale e i volontari AIB della Protezione Civile. Oltre alle varie squadre che stanno operando da terra, è intervenuto anche un elicottero regionale che sgancia acqua sulle fiamme. Fino a sera gli operatori hanno cercato di contenere l'incendio, spegnere le fiamme e bonificare l'area. Solo poco prima di mezzanotte le varie squadre impiegate sono rientrate ai rispettivi comandi. I controlli sono ripresi questa mattina. Sono 3.700 gli ettari di superficie boschiva andati in fumo a causa degli incendi delle ultime settimane sul Carso. I più colpiti sono i comuni di Merna, Castagnevizza in Slovenia e di Doberdo del Lago sul lato italiano. Serviranno molti anni per ripristinare la flora e la fauna andate perdute. Una ferita grande oltre 4.000 ettari si è aperta sul Carso. 3.700 quelli di bosco andati in fumo, a cui vanno aggiunti i 250 del rogo di San Michele, l'ultimo in ordine di tempo che continua a generare focolai ancora nelle ultime ore. Un'immagine dal satellite europeo Sentinel mostra molto chiaramente le aree interessate dall'incendio, le peggiori conseguenze al di là del confine. La stima è stata elaborata dall'Università di Udine con il gruppo Ricerca Ambiente e Territorio. È come se fossero andati in fumo oltre 7.000 campi di calcio, per intenderci. Un'estensione talmente colossale da superare di circa 40 volte l'ampiezza di tutti gli incendi che si sviluppano in un anno normale in Friuli Venezia Giulia. Il fuoco ha portato via oltre 200.000 metri cubi di legno, più o meno quanto ne viene tagliato ogni anno in regione. Ma come è possibile evitare il ripetersi di questi fenomeni? Giorgio Alberti, professore di selvicoltura e assestamento forestale. Quello che sarebbe importante adesso, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, è la prevenzione, quindi una gestione attiva del territorio in maniera tale da ridurre la biomassa legnosa potenzialmente infiammabile, ma anche creare delle strutture forestali più articolate, non omogenee su ampie superfici. Uno dei problemi è che la proprietà nei boschi è solitamente molto frammentata. Si tratta di piccoli appezzamenti con più proprietari, spesso difficilmente rintracciabili. Per questo il nuovo testo unico forestale consente agli enti pubblici una gestione dei terreni cosiddetti silenti, ma ancora in Italia ci sono poche esperienze al riguardo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Non molla la presa l'emergenza siccità che attanaglia ormai tutta la nostra regione, una situazione che ora preoccupa molto anche gli agricoltori del Carso, in particolare i viticoltori, che non utilizzano sistemi di irrigazione che attingono a falde ma fanno affidamento solo sulle piogge. Come sistema di supporto i comuni di Duina Orisina, Monrupino e Sgonico utilizzano l'acqua che arriva dall'acquedotto del Carso. A causa della siccità la richiesta è ora 4-5 volte più alta del normale, ma non c'è un problema di scarsità di approvvigionamento. Gli agricoltori di Prosecco e Contovello, quando non piove, si appoggiano invece sull'acquedotto di Trieste, che si rifornisce sui pozzi dell'Isonzo, una falda profonda che non è in allarme idrico, ma per i viticoltori non è una soluzione ottimale. In un'altra area critica per la siccità, la pianura friulana, i temporali hanno permesso di ripristinare la portata del canale di Bresse e degli usi domestici di Dignano e Carpacco. Nella bassa occidentale l'area più colpita rimane quella dei comuni di Rivignano Teore e Pocenia, dove non è possibile garantire l'irrigazione a tutti i terreni a causa della ridotta portata dei corsi d'acqua di risorgiva da cui si attinge l'acqua. Per lo stesso motivo la situazione resta delicata anche nella bassa orientale. Il mondo del lavoro, con l'avvertenza della Varsila e la manifestazione dei lavoratori in Piazza Unità a Trieste e in contemporanea negli altri stabilimenti della multinazionale finnica Taranto, Napoli, Genova e Cuneo. I sindacati vogliono portare l'azienda davanti a un giudice per comportamento antisindacale. I sindacati ormai la chiamano di nuovo Grandi Motori e non più Wärtsilä. Un vecchio striscione degli anni 70 sul palco ricorda quanto la fabbrica di Bagnoli sia storia a Trieste. C'è chi ha il logo addirittura tatuato sul braccio. La speranza è quella di riuscire a convincere l'azienda finlandese a far retromarcia. Presto i rappresentanti dei lavoratori apriranno un contenzioso legale per condotta antisindacale, con l'obiettivo che un giudice sospende i 451 licenziamenti nel ramo produttivo, regalando tempo per trovare una soluzione. Michele Pagliani, Wilm. Dal punto di vista nazionale, le strategie che stiamo adottando le stiamo adottando tutto, cominciando da un aspetto meramente legale che viene avviato, non è solo un vizio di forma, ci sono delle inesattezze nella procedura. Altre iniziative noi dobbiamo far diventare questa vertenza non solo una vertenza di Trieste, ma una vertenza di carattere nazionale. Qui... A medio termine trova sostenitori l'idea di un'industria del mare con sede nell'Alto Adriatico, con Stato e privati a finanziarla. Luca Trevisan, FIOM CGL. Wärtsilä deve comprendere che deve ritirare la procedura di licenziamento e se non lo fa, il tema che noi vogliamo porre al governo è che bisogna trovare delle soluzioni alternative. Bisogna garantire la continuità produttiva ed occupazionale qui a Trieste, bisogna salvaguardare la filiera produttiva. Massimiliano Nobis, FIM CISL. Bisogna insistere della presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, il governo è di passaggio ma gli impegni devono rimanere. Il ministro Giorgetti ha detto che attiverà un processo per l'industria del mare, per noi è un progetto che deve dare continuità sia al lavoro di Wärtsilä, ma dare, del sito di Wärtsilä, ma dare anche opportunità di crescita. I lavoratori composti hanno scioperato e con loro i colleghi di tutti gli altri stabilimenti Wärtsilä d'Italia. In piazza hanno portato cappellini e caschetti, circa 300, lasciati davanti al palco. La città non si dimentichi di noi, chiedono, assieme a istituzioni e politica, per una volta compatte. E promettendo un'altra manifestazione a inizio settembre, quando le temperature consentiranno più partecipazione da parte dei cittadini. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale multisettoriale 2022 del Friuli Venezia Giulia in quanto, è detto in un comunicato di Palazzo Chigi, talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto Speciale e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile e tutela della salute, violano gli articoli 81 e 117 della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza di cui è l'articolo 3 della Costituzione. Ancora la politica, duro attacco del Partito Democratico in Consiglio regionale. Secondo il capogruppo Dem Diego Moretti, la spartizione di risorse agli enti locali effettuata dalla Giunta regionale attraverso la cosiddetta concertazione sarebbe stata improntata all'arbitrarietà e alla discrezionalità, creando di fatto delle forti disparità tra i comuni. Per questo, ha detto Moretti, a breve verrà formalizzato un accesso agli atti rispetto alle istruttorie dei singoli interventi finanziati in un'ottica di maggiore trasparenza. Un appuntamento politico. Il politico Sinistra Unita ha invitato a un pubblico dibattito i rappresentanti dei partiti della sinistra, di associazioni e sindacati per fare il punto sulla situazione politica italiana alla vigilia delle prossime elezioni di settembre. Un focus sulle scelte e gli scenari possibili delle forze politiche e sociali che hanno nei loro programmi i temi della sinistra. A Udine, al Cinema Visionario, alle 18.30. È un percorso lungo e molto accidentato quello che hanno dovuto percorrere alcuni risparmiatori delle banche venete fallite ormai parecchi anni fa per recuperare il denaro perso nei crack. Una recente sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di un'anziana udinese. Aveva sbagliato a digitare uno zero, 10% invece di 100%, nella domanda di indennizzo per recuperare parte della somma persa dopo il naufragio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E così, invece di ricevere 39.000 euro, ne ha ricevuti 3.900. Un errore di battitura, ma la Consap, la società dello Stato che cura le procedure di rimborso, non ha voluto sentire ragioni, fino a perdere in tribunale. Il TAR regionale ha accolto il ricorso di una 80enne udinese associata a Federconsumatori. Non andava preso in considerazione solo il modulo con l'errore di battitura, ma anche il resto della documentazione allegata. Da parte di Consap, si legge nella sentenza, è venuto meno uno specifico e consapevole sforzo istruttorio nei confronti dell'anziana. Rimborsate anche le spese di tribunale. Per fortuna il TAR di Trieste ci ha dato ragione, condannando altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze a restituire alla consumatrice la somma versata per poter iniziare la causa. Quindi mi sembra un buon risultato. Le pratiche si concentrano principalmente nel capoluogo friulano, dove la Banca Popolare Udinese venne acquisita da quella vicentina nel 98. L'attività del fondo indennizzo risparmiatori verrà probabilmente estesa fino al 31 dicembre e non si esclude possano emergere altri casi simili. Effettivamente non si stanno svolgendo bene le istruttorie. Abbiamo appurato che stanno pervenendo molti rigetti. Questo prolungamento speriamo sia proficuo anche a far instaurare un rapporto con la Consap, cosa che non si è visto negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni. Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio le interviste all'avvocato Ida Castaldo e al presidente della Federconsumatori Udine, Erika Cuccu. Corre il comparto del legno arredo regionale, più 26,4%, l'export del Friuli Venezia Giulia, una delle migliori performance a livello nazionale dopo Lombardia e Veneto, ma il trend è in crescita per quasi tutte le regioni italiane, eccezion fatta per Campania e Molise. Lo attestano i flussi commerciali per regione, nel primo trimestre di quest'anno, elaborati dal Centro Studi Federlegno Arredo. Tra le province in testa alla classifica c'è la Marca trevigiana, tallonata in seconda posizione da Pordenone, con un exploit addirittura del più 31%. A tirare di più è soprattutto il comparto del mobile, più 28,5% a livello regionale, pari a 503 milioni di euro, con destinazioni Regno Unito, che registra un incremento del 45,6%, e Stati Uniti, più 71,9%. Da consumatori a produttori di energia, un destino conveniente e sostenibile, quello che ci aspetta di fronte alla crisi energetica. Le multi-utility spingono verso la produzione diffusa di energia da parte delle famiglie e i prossimi tetti che verranno coperti di pannelli fotovoltaici saranno quelli dei condomini. Produrre energia, utilizzarla e vendere ciò che non si consuma. Se i pannelli fotovoltaici finora li abbiamo visti solo in villette o capannoni, presto cominceremo a vederli nei tetti dei condomini. I condomini potranno così coprire il costo delle utenze comuni, le spese per ascensore o illuminazione e guadagnare dall'energia prodotta in eccedenza. A Bologna a settembre inizieranno i lavori in un primo condominio. Siamo partiti da semplici consumatori di energia. Siamo diventati produttori e consumatori con l'impianto fotovoltaico individuale, diventiamo consumatori collettivi con l'impianto nel condominio, possiamo diventare comunità energetica con la condivisione dell'energia anche a soggetti al di fuori dell'edificio produttore. Ci siamo chiesti cosa significherebbe a Trieste se di pannelli fotovoltaici si potessero coprire i tetti dei tanti stabili di proprietà dell'Ater. Pensiamo solo a Melara e ai suoi 2500 utenti. Il presidente Riccardo Novacco dice: noi siamo il luogo giusto dove iniziare questo ragionamento. Perché abbiamo per esempio 1568 stabili nella provincia di Trieste, voglio dire, sono tantissimi e su questo numero così importante sicuramente tetti piatti ce ne sono, a bizzeffe direi io. E infatti proprio a Trieste un primo complesso ATER con pannelli fotovoltaici e dispositivi di efficientamento già c'è e si trova a Ponziana. Proseguire con questa strategia potrebbe ammortizzare i costi per le famiglie. L'ATER soffre di una morosità consistente del 22%. Tutto quello che potrebbe essere energia elettrica ovviamente è dirompente secondo me il guadagno che si potrebbe dare agli utenti nostri. Purtroppo hanno degli ISEE bassi e noi siamo qui per aiutare ovviamente le famiglie che non possono. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il bollettino regionale della pandemia: sono 1170 i nuovi contagi a fronte di 6310 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Invariato il tasso di positività al 18,5%, mentre l'incidenza settimanale si attesta in calo a circa 676 casi su 100.000 abitanti. Scendono a 4 i ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno nelle ultime 24 ore, mentre sono 271 i degenti con Covid ospitati negli altri reparti, 5 in meno. Registrati 4 decessi. Duomo di Belluno gremito ieri pomeriggio per l'ultimo saluto a Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo di Trieste e Messaggero Veneto, scomparso improvvisamente lo scorso 1 agosto all'età di 57 anni. Tra i presenti vari esponenti del mondo delle istituzioni e della politica, tra i quali i presidenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, oltre al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e al presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. A recare l'ultimo saluto al giornalista anche il direttore generale del gruppo editoriale Gedi, Maurizio Scanavino, e vari cronisti delle testate dirette in precedenza da Monestieri in Veneto e in Trentino Alto Adige. Nell'occasione Fedriga ha parlato di Monestier come di un amico e di un professionista di grande correttezza, ma con una grande capacità di saper gestire l'informazione, tenere vicino i lettori e saper dialogare col territorio e interpretarlo. Il feretro al termine della funzione è stato tumulato nel cimitero di Belluno, città di origine di Monestier. La cronaca al termine di controlli per il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del prodotto ittico presso gli esercizi commerciali nella zona di Lignano-Sabbiadoro, i militari della Capitaneria di Porto di Monfalcone e Grado hanno posto sotto sequestro 200 kg di prodotto ittico, riscontrata la presenza all'interno di un ristorante della zona di una cella frigo in cui erano conservati numerosi esemplari di pesci, tutti privi di documenti in grado di attestarne la tracciabilità. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato multato di 1.500 euro. La tribolata vicenda del tram di Opicina registra l'ennesima puntata sfortunata. Durante un giro di prova nell'ambito delle verifiche tecniche del servizio in attesa della sua ripresa, una vettura della linea è stata leggermente urtata al quadrivio da un'auto alla cui guida si trovava una donna che non aveva dato la precedenza al mezzo pubblico e che non ha subito conseguenze fisiche, ma è stata sanzionata. Il tram ha registrato solo un lieve danno a un fanale. Continua la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato relativamente alle truffe e ai danni di soggetti vulnerabili e dalla violenza di genere. Nei pressi della Fontana di Barco, la Trieste alle 10.30, saranno presenti all'iniziativa il questore Pietro Stuni e la vice responsabile della divisione anticrimine Stefania De Castro. Ci avviciniamo al grande esodo estivo per le agognate ferie di agosto e i numeri dei passaggi sulle nostre autostrade fatti registrare già nell'ultimo fine settimana di luglio confermano la ripresa in grande stile del turismo dopo 2 anni di calo a causa della pandemia. Cresce il traffico dei fine settimana d'estate sulle autostrade della regione, tanto da superare del 20% i livelli pre-pandemia. Ma se fino all'anno scorso l'esodo paralizzava la A4 da Venezia a Nodo di Palmanova, oggi è tutto un altro viaggiare. Il merito va all'apertura della terza corsia da Alvisopoli fino allo snodo con la A23. Restano le giornate da bollino rosso, che in gergo autostradale significa traffico intenso, e anche quelle da bollino nero, traffico critico, come è stato sabato scorso e come è previsto questo sabato e poi il 20 e il 27 agosto. La congestione è stata, e lo sarà ancora, in corrispondenza degli svincoli per le località balneari, in testa quello di Latisana, che porta le spiagge di Lignano e Bibione, e all'Isert. In uscita alla barriera di Trieste, gli incolonnamenti lo scorso weekend hanno raggiunto i 5 chilometri. Se superano i 6, un protocollo fa scattare l'uscita obbligatoria a Villesse. Una deviazione un po' più lunga ma molto scorrevole, che consente di infilare una dietro l'altra le autostrade di 3 paesi, Italia, Slovenia e Croazia. Una soluzione scelta lo scorso sabato da 17.000 automobilisti che in questo modo hanno scongiurato la paralisi all'uscita dell'Isert, dove sono invece transitati 24.000 veicoli. Quanto alle previsioni, gli ultimi 2 fine settimana di agosto presenteranno ancora code e rallentamenti, ma in senso inverso rispetto alle spiagge da Trieste in direzione Venezia e da nord verso sud per il controesodo dalla montagna. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione del 77° anniversario di Hiroshima e Nagasaki, organizzazioni pacifiste di Trieste, Slovenia e Austria organizzano a Trieste 2 momenti di riflessione per denunciare la guerra in Ucraina e per chiedere la denuclearizzazione del Golfo in base ai trattati internazionali. Alle 10.30 nel parco di San Giovanni, presso il caco sopravvissuto all'esplosione di Nagasaki, piantumato davanti lo studio di Franco Basaglia, e alle 18.30 presso la targa che ricorda in Piazza Unità la promulgazione delle leggi razziali. Legambiente, l'Osservatorio Civico contro l'illegalità del Friuli Venezia Giulia e il Comitato per la salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli organizzano un incontro dal titolo Oltre 30 anni di abusi amministrativi e ambientali in provincia di Udine, una lotta tra ostacoli, isolamento e intimidazioni, con presentazione di una mappa dei principali disastri ambientali presso l'Orto Collettivo in via Torino alle 19. E siamo allo sport calcio. Arriva il primo impegno ufficiale per l'Udinese, che questa sera alla Dacia Arena affronterà la Feralpi Salò con inizio alle 18 nel primo turno di Coppa Italia. Sentiamo il commento della vigilia dell'allenatore dei neroverdi, Sottil. Una partita da non sottovalutare nella maniera più assoluta, sarebbe un gravissimo errore. Questo l'ho già detto ai ragazzi, massima concentrazione, massima attenzione, perché per noi è l'esordio, giochiamo in casa, nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Abbiamo l'obbligo, la voglia, l'entusiasmo, la determinazione, la caparbia, la fame di fare una grande prestazione e di passare il turno, rispettando assolutamente, anche se è un avversario, sappiamo benissimo che è due categorie sotto, ma assolutamente organizzato, e quindi dobbiamo approcciare a questa partita come se fosse una partita di campionato. Vabbè, Perez lo conoscete benissimo, io ho visto le partite dell'anno scorso, un giocatore che conosco, poi quando gli alleni chiaro che vai più in profondità sulla conoscenza, è assolutamente un giocatore di livello, l'ho visto con grandissimo entusiasmo, nonostante sia comunque ancora relativamente giovane come calcisticamente parlando, perché è un ragazzo, dimostra grandissima personalità, grandissima leadership all'interno del reparto, e questo mi piace molto. La Liga Pro ha comunicato la composizione dei gironi della Serie C 2022-2023 al via il 28 agosto. Il Pordenone e la Triestina sono stati inseriti nel raggruppamento A, che comprende anche quattro formazioni del Veneto: Arzignano, Vicenza, Padova e Virtus Verona, una del Trentino Alto Adige, Trento, una dell'Emilia Romagna, Piacenza, nove della Lombardia, Albino Leffe, Feralpi Salò, Lecco, Mantova, Pergolettese, Pro Patria, Prosesto, Renate, San Giuliano City e tre del Piemonte, Juventus, Under 23, Novara e Provercelli. Rinviato il calendario completo del campionato che doveva essere svelato oggi. Tennis: Mattia Bellucci ha approdato ai quarti di finale del torneo ATP Challenger in corso sui campi dell'Eurosporting Club di Cordenonse. Il 21enne di Busto Arsizio, numero 301 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto il bosniaco Damir Zumur, 243 ATP, per 6-2-6-1. Ai quarti di finale Bellucci sfiderà questo pomeriggio il piemontese Andrea Vavassori, 210 del mondo, che ha sconfitto il portoghese João Dominguez col punteggio di 7-6, 7-6. Agosto all'insegna di spettacolo, musica e intrattenimento a Muggia, che celebra il carnevale estivo. A inaugurare il grande evento il conduttore radiofonico Andro Mercù alle 20 e a seguire Ipanema Show do Brasil. Domenica la tradizionale regata a Voga d'Amata e la sfilata dei carri sul mare. Sentiamo Enzo Rovinelli del comitato organizzatore del carnevale. Stasera apriremo con le ballerine brasiliane, che nell'ottica del carnevale, sapete, no? Rio de Janeiro, eccetera, eccetera, quindi sarà una cosa, un'apoteosi, ragazze bellissime, stupende. Però devo dire una cosa importante, perché noi avremo come ospite... Ah, guardi, mi sta chiamando in questo momento, aspetti, che manca in linea. Buongiorno, sono Francesco, Papa Francesco. A Muggia si inaugura il carnevale estivo e mi hanno detto che ci saranno anche delle ballerine brasiliane. Auspico che siano vestite decorosamente, in maniera cristiana, mi raccomando, che il Signore benedica il carnevale estivo di Muggia e che la Madonna lo custodisca. Arrivederci. Grazie, grazie. Il carnevale è un scherzo male. Ma quello che è importante ricordare è che domenica avremo la Voga d'Amata, sfilata di carri allegorici sul mare, e poi tantissimi concerti, tantissimi personaggi. Vi ricordo sabato 6 agosto il Toso di Vasco Rossi e così avanti. Sarà un'apoteosi di spettacoli bellissimi su Piazza di Caliterna a Muggia. Non dimentichiamo una cosa molto importante, che le 8 compagnie del carnevale muggiasano saranno presenti con dei chioschi, delle bellissime casette, dove faranno i prodotti tipici locali della nostra provincia. Carnevale muggiasano e poi avanti fino al 15 agosto, fino a Ferragosto. Sì, fino a Ferragosto. E il giorno prima c'è anche la neve a Muggia. Porteremo dei cannoni grandi che sperano questa neve sulla piazza, e il 14 sera sarà questa. Ma scusi, in un momento di siccità e di mancanza dell'acqua? Noi siamo un po' matti a Muggia, porteremo della neve artificiale, ma è quella che si vede nel film, cioè neve fatta con schiuma artificiale. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Torna in tutta Italia e anche in Friuli Venezia Giulia una delle più importanti manifestazioni enoturistiche dell'estate, Calici di Stelle. Da Aquileia a Premariacco, da Butrio alla Tisana, in tante piazze delle città del vino sono previsti appuntamenti e spettacoli per ammirare il cielo di notte sorseggiando i vini del territorio in buona compagnia. Uno tra gli appuntamenti sarà quello in programma nella terrazza sopra la Baia di Sistiana dalle 19.30. Ce ne parla Silvia Cefalo, vicepresidente della Proloco Mitreo. Oggi e domani due serate all'insegna dei vini sulla magnifica terrazza con una bellissima vista sulla baia di Sistiana, due serate all'insegna di degustazioni dei migliori vini del nostro territorio e di assaggi gastronomici di accompagnamento. Quali sono i vini che si potranno degustare? Abbiamo una bellissima rappresentanza del nostro territorio, tra i 15 e i 20 produttori delle nostre parti, partendo dai vini della zona di Muggia, quindi Sant'Orligo, poi abbiamo una rappresentanza del Carso, adesso ci spostiamo anche verso il Collio e siamo molto felici anche quest'anno di ospitare vini della vicina Slovenia, così da rappresentare al meglio i bianchi saporiti, gustosi del nostro territorio, quindi con la sapidità e la salinità del nostro Carso, ma anche appunto vini che vengono dalle vicine zone del Collio Goriziano, abbiamo rappresentanze anche da Cividale, del Friuli, quindi proprio una bella e ampia panoramica, vini bianchi fermi e frizzanti e i rossi anche per accompagnare gli stuzzichini a base di carne che saranno presenti grazie ai catering ai quali ci siamo affidati. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7:48 minuti apriamo la rassegna stampa con la prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. In primo piano la protesta dei cappellini Varzila, in più di 1000 in piazza, lottiamo per la dignità del lavoro, istituzioni al loro fianco, dai dipendenti ai pensionati, in gioco c'è un mondo intero. Anche a Genova salgono i timori per gli operai liguri che sono scesi in corteo. L'ultimo abbraccio, i funerali del direttore del Piccolo e del Messaggero Monestier a Belluno. Colleghi, familiari, amici dicono il tuo ricordo sarà l'opera più bella. Tram di Opicina, nuovo incidente durante le prove. A questo punto intervenga un esorcista, ironizza qualcuno, in mezzo alla miriade di post che invadono i social non appena si diffonde la notizia. Per il tram di Opicina gli ostacoli, insomma, non finiscono mai. Nel capocronaca, musica fuori controllo in centro città. Anche i residenti pronti a denunciare, non solo alberghi e locali. Fra Cavana e Borgo Teresiano, interi condomini a un passo dalle vie legali. A Resia e nel Carso bruciati dai roghi 3.840 ettari di bosco e questa è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Secondo le stime persi 201.000 metri cubi di legname, ci vorranno decenni per rigenerare la vegetazione. In alto l'abbraccio al direttore con una foto della famiglia del direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier, durante i funerali a Belluno. Sulla destra la cronaca, da Udine bivacchi sotto il condominio, i residenti protestano, il Covid tra i sanitari, in agosto contagi come nel picco pandemico. Apertura sempre sugli incendi per il Gazzettino, edizione di Udine, una tempesta di fuoco come vaia è il titolo in prima pagina. Nella fotonotizia, virus del Nilo, nuvole di zanzare infette, individuati anche in regione i portatori. In taglio centrale, variante Dormish, via libera unanime dell'assemblea. Ieri il voto in consiglio comunale che dà il via libera alla svolta per l'area. Sulla destra il caso della Modine di Pocenia. Raffrescamento nell'azienda che scioperava per il troppo caldo. Sul fondo una storia, un architetto di Udine conquista la Finlandia e lo sport, l'Udinese partenza da non sbagliare in Coppa Italia. Dalle piccole edizioni di Gorizia e Monfalcone, Nidec, futuro più incerto, l'incognita fine cassa per gli oltre 300 dipendenti, commessa per una trentina di motori. Il vallone riaperto al traffico, assieme a una serie di arterie stradali di collegamento, il via libera alla circolazione veicolare a partire dalle 8 di questa mattina. Ieri tuttavia un nuovo focolaio è emerso sul monte Brestovez. Famiglie in difficoltà, Ater accelera in arrivo 147 nuovi alloggi popolari, cantiere aperto in via Pola e decine di risistemazioni. L'ex pretura e l'ex catasto a nuovo a Cormons. La festa della vendemmia a San Floriano, una vendemmia anticipata di 7-10 giorni, è questa la stima del consorzio Collio che individua nella data del 25 agosto l'inizio della raccolta dei grappoli di Pinot Grigio. La siccità però non influirà sulla qualità delle uve. Nel capocronaca di Gorizia, record di negozi chiusi lungo via Rastello, c'è il piano rinascita attesa per i soldi del bando Borghi che porteranno nuove aperture e vivacità. Apertura sugli incendi per il Gazzettino di Pordenone, in taglio centrale, sbanda in scooter, muore davanti al pronto soccorso, l'incidente è successo a San Vito, vittima della caduta un 63enne. Sulla destra l'incendio di Polcenigo, bosco a fuoco, due focolai sospetti sopra coltura, sul fondo ambulanti, la protesta con 50 furgoni. Dal Messaggero Veneto di Pordenone leggiamo la cronaca locale, da Sacile, addio a Vairo, fu assessore e giudice di pace e poi corteo degli ambulanti contro le norme dell'Unione Europea sulle assegnazioni. E sotto il Covid non calano i contagi, ogni giorno due morti. In alto nella pagina il turismo regionale sta cercando personale che conosca le lingue e Friuladria utile a 40 milioni e più impieghi sul territorio. Sul fondo la mostra sul giovane fotoreporter Bepi Missinato a Sacile, nel bianco e nero di Bepi, Sacile raccontata ai giovani. Dalle pagine interne a Zano Decimo persi i ristori del maltempo di un anno fa, a Pordenone morto Ferruccio Giaccherni, è stato medico alla neuropsichiatria infantile. Alcuni appuntamenti prima di chiudere: alle 21 al Teatro San Giorgio a Udine, in collaborazione fra Festil e Teatro Contatto 40, va in scena in prima assoluta Pasolini Pound, Odi et Amo, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Leonardo Petrillo e prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Presso la corte di casa Candussi Pasiani a Romanze di Sonzo, con inizio alle 20.45, si terrà la lettura scenica dall'omonimo libro di Mauro Corona, La fine del mondo storto, a cura dell'associazione Art Teatro di Monfalcone. Metamorfosi del Novecento, storia di un quartiere tra arte e botteghe, un itinerario che promette nuove prospettive cittadine, perché fuori le mura antiche, nel Novecento, Udine ha sviluppato un'edilizia popolare d'eccellenza con botteghe artigiane e innovative. Si parte alle 18.30 da Piazzale Osoppo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire il quotidiano appuntamento con un classico della letteratura friulana del secondo Novecento, opera di Don Giuseppe Marchetti, uno dei più grandi prosatori friulani. Alle 11.20 un tranquillo weekend a paura estate, con tanti consigli per trascorrere il fine settimana in regione. Tra le mete proposte, la Carnia, la Tisone, Casarza, Tolmezzo, il sentiero Rilke e Miramare. I programmi regionali torneranno poi alle 14. E alle 7.53 minuti si chiude così questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Livia Liberatore e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Noi ci risentiamo alle 12.30 con la seconda edizione del GR. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.